da sotto, se no diventi giapponese. Mi sento un po' triste. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Brottolare? Perché stai uscendo così male? Chiedo, chiedo. Perché stai uscendo così male? C'è che non male, io. Adesso va bene. Ma non mi tocchi. Già, sono sveglio, sono sveglio. Lì che c'è Antonello. Oh, lo sento. E anch'io lo sento pio pio. Antonello. Oh, Pupulio. Qui che dalle 22 c'è allerta meteo, mi. Sacchetti nelle antenne. Eh beh, Claudio, dalle 22, cosa va? Senti, ci mi brucia un mobile, come guarda, messi da Pulao Ponti. Vabbè, ma chiudete. Allerta meteo, raffiche di vento, 70 km orari, è temporale in arrivo, infatti da qua si vede ancora che c'è appena appena di luce, già tutto nero verso Alghero, verso quelle zone. KK, ciao, buonasera a tutti, dai, ci sentiamo dopo, ciao Giomarì, tappetevi. E cosa c'è, cara, buonasera, cosa c'è? Allerta meteo. Temporale in arrivo dalle 22. Ah, ehi, vabbè, già ci copriamo bene, dai. D'accordo, se devi andare, ciao, qua, ci sentiamo. Ciao, Giovanni, no, le antenne, staccate le antenne, la corrente dalle radio, dagli alimentatori, che può essere pericoloso. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Ve l'ha detto, cioè, allerta meteo. Così ha detto, allerta meteo. Sì, lui, allerta meteo. Stavo parlando con un radioamatore che lavora all'aeroporto di Fertiglia e hanno dirottato già due aerei. Non li fanno atterrare dopo le 22, vuol dire che c'è molto vento e temporale, gappa. Ehi, vabbè, già, non li passi nulla, non li passi, va. Fanno i bovari, non si passi nulla. Lo so, ma è sempre, bisogna stare sempre attenti. Io ho già abbasciato tutti i dapparetti e poi più tardi stacco qualche antenna, si rabbia il luce. Non voglio far avvenire anche uno, qualche fulmine. Ti disintegra già il corazon. Vabbè, tu passa la brittella. Io ho già baciato la brittella, ci butto la casarella a vola e le dapparette ho già baciato. Vabbè, tanto cosa li fa? Mi vedi, adesso salgo a casa, che mi hanno invitato, non so se lo conosci, ma sicuramente li conosci, Tori Mula, Domenico Mula di Porto Torres. Di vista li conosco. Lu, ho un radioattore, non faccio nomi, ma qualcuno sa chi è, Mi ha incendiato la casa, forse non hai compreso nulla tu. Oltre 40.000 euro di danno. La casa l'ha incendiato me. Un fulmine, un temporale. E lui non c'era neanche, manco male. Ma qua a Sassari in continente? No, qua a Sassari, uno dei nostri. Piccata, e poi va via che cosa che non andava, là. Se l'ha incendiato la casa, va via che cosa che non andava, E cosa c'è che non va, lui? Quando c'è temporale, che c'è che sono fulmine e tuoni, e basta una stronzata attaccata, entra da lì e passa dentro la casa, soprattutto di bresi, di tutto, capito? Di tutto e di più, oltre 40.000 euro di danno, senza tutti il radio, senza contare il radio, solo l'appartamento. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Cioè, perché se tu le dai adito di lasciare roba attaccata e lui cammina, hai perso. Deve entrare e fermarsi e il danno è inferiore, ma se trova roba attaccata alla corrente e cammina, sono cavoli nostri. Entrate Giomari, bubu. Lo distaccavo bru contatore. Attaccami la cartella a petrolio, qua. No, Giomari, davvero, non le fa niente, il contatore è una cosa molto molto riservata, non è, il problema è se per esempio dovesse attirare il fulmine alle nostre antenne, perché è sempre fattibile il discorso delle antenne verticali, no? Questo lo sappiamo tutti. E prende, scende e trova prese attaccate, alimentatori, computer, televisore, eccetera. E pizzica tutto, continua a camminare fin sagando una gatta a sfogo. Se invece tu non avrai adito di camminare, lui si blocca, perché a me è successo. Si è bloccato sulla prima cosa che ha trovato, perché poi c'era il salvavita e quindi non è passato. Ma mi ha fatto 5 anni fa, 4.000 euro di danno a me. Ci ho rimesso 2 radio, computer, infatti l'ho comprato nuovo da Luca, scaldabagno, lavatrice, le prese sono attaccate, è molto pericoloso, capito? Tanto il temporale quando è di passaggio passa magari un'oretta e cammina, magari è fisso in altri dai, è pericoloso, le cose che non servono bisogna staccarle, capito? E glielo gridi. E beh, in questo caso quando c'è il temporale è chiaro che bisogna staccare tutto e sei tranquillo. Cioè, è molto pericoloso infatti. Scusate, io mi sto preparando, ragazzi, sto mettendo la gelatina, questi pochi berri mi sono rimasti. Anche io adesso mi faccio il giretto in computer, ci sentiamo, dai, buon proseguimento, ciao qua. Ciao Giovanni, anch'io sto facendo un paio di cosette, poi se mai ci sentiamo più tardi, dai. Se si può far vedere, se non si può far vedere, si apre le luci. Ciao a frappè. Ebbe, bello bene.